La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. Ancora un commento sulle elezioni amministrative. Anche in Sicilia vince il centrosinistra. Vi ricordo il nostro numero per gli sms 349-238-6666. Enzo Bianco è eletto al primo turno sindaco di Catania, mentre già il neo primo cittadino di Roma, Ignazio Marino, lancia il suo primo progetto, ovvero pedonalizzare i fori imperiali. La giunta sarà composta, spiega Marino, per metà da donne e poi chiederà consigli a Stefano Rodotà. Il Partito Democratico vince di fatto le elezioni amministrative, caratterizzate però, lo ricordiamo, da un fortissimo astensionismo. Allora, sentiamo il parere di Francesco Boccia, PD, presidente della Commissione Bilancio della Camera. È evidente che nel Paese il confronto, la contrapposizione centrodestra e centrosinistra non solo permane, ma è sotto gli occhi di tutti e ci sono visioni di governo delle comunità che sono alternative e contrapposte. Il centrosinistra ha vinto perché ha proposto candidati più credibili e una coalizione certamente più coesa e più ampia. Questo non significa che il PDL debba sentirsi penalizzato, dopodiché non posso non notare chi riteneva che il PD poteva uscirne ridimensionato o comunque condizionato dall'alleanza di governo è stato servito. Crocetta dice che i 5 Stelle sono andati male perché fondamentalmente anche in Sicilia e perché Grillo non ha voluto fare poi il governo col Partito Democratico, insomma non si governa senza coalizioni in Italia. Non si può pensare di far politica rifiutando l'idea di governo del paese. La politica delle proteste non ha mai portato al governo nessuno e quando è successo, bisogna andare in altri paesi e in altre epoche storiche, ha prodotto solo autolesionismo. Se Grillo pensava di fare la rivoluzione francese, rischia di fare la fine di Robespierre. E questo era il parere di Francesco Boccia. Avete sentito, Grillo rischia di fare la fine di Robespierre. Ma intanto il leader del Movimento 5 Stelle attacca: le elezioni sono una vittoria di Pirro per gli italiani, aumenta il disgusto, vince la solita oscena politica. Però poi è a sua volta attaccato dalla senatrice 5 Stelle Adele Gambaro, che dice: il problema del Movimento è Beppe Grillo. Ne segue un battibecco e Grillo risponde: sono io il problema? Sì, perché secondo la Gambaro i suoi post, quelli di Grillo, mettono in cattiva luce i parlamentari. Comunque noi abbiamo chiesto il commento alle elezioni amministrative alla deputata 5 Stelle Carla Ruocco. Il Movimento 5 Stelle, l'ho detto e spiegato più volte, è un movimento che ha un programma, un progetto soprattutto di lungo periodo, per cui noi siamo presenti sul territorio e questa è la cosa più importante. Ci sono tanti meetup che appunto a livello locale si sono organizzati per presentarsi nei comuni, sono sempre di più e quindi il nostro progetto va avanti. Però non siete andati bene, questo lo ammettete? Pomezia e Semini. Beh, Pomezia è un comune significativo vicino Roma e da lì si parte, stiamo lavorando, le ripeto, siamo presenti e andiamo avanti. Crocetta però dice che il 5 Stelle è andato male perché sia in Sicilia, poi anche a livello nazionale, alla fine non ha voluto governare col Partito Democratico, bisogna fare le alleanze. E cosa può dire Crocetta se non questo? È chiaro che Crocetta gioca il suo gioco. Abbiamo fatto una scelta che di opposizione perché il sistema è compatto, PD e PDL sono insieme, si trovano perfettamente concordi nelle decisioni in commissione. Noi abbiamo presentato, per esempio si è visto con la mozione di Giachetti, abbiamo votata solo noi e Giachetti e forse Sel, che ogni tanto fa finta di essere opposizione, per le elezioni si presenta col PD. A proposito di compattezza, voi vi siete ricompattati ieri, allora questi dissidenti non siete più come Scientology? Non siamo mai stati come Scientology, noi siamo come cittadini, quindi abbiamo le nostre dialettiche interne, poi si risolvono, si va avanti in un progetto unitario. E chi vuole rimane, chi vuole va via, insomma, quindi non c'è... Certo, si sciolgono anche i matrimoni, purtroppo, vuole che ci spaventiamo per così poco, insomma... E questa era Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle. Abbiamo sentito oggi un po' il tema all'interno del Movimento 5 Stelle è l'accusa della senatrice Gambaro allo stesso Beppe Grillo, che dice praticamente il problema del 5 Stelle è lui, il problema del movimento è lui. Ma non è che ovviamente c'è poi un Beppe Grillo silenzioso che dice come sono io il problema e lancia il referendum. Intanto Fabrizio da Pesaro, lo vedo molto attento, molto molto particolare, ci dice: ma scusi, ma Boccia è lo stesso marito della Di Girolamo? Lui del PD e lei del PDL? Beh Fabrizio, oh yes, you got it right. E a proposito del PD, c'è uno scontro tra Falchi e Colombo sulle ipotesi di riforma della forma di partito annunciato da Daniela Santanchè. È chiaro che il PDL è l'altro sconfitto delle urne e noi siamo andati a sentire il parere del capogruppo alla Camera Renato Brunetta. Il centrodestra esce sconfitto e questo, come dire, lo vedono anche i sassi. Il PD non vince, nel senso che vincere le amministrative con tassi di partecipazione attorno al 40% è una vittoria dimezzata. E ne escono sconfitti un po' tutti i partiti. Dopodiché dentro questo vince chi ha più alta propensione al voto, come c'era la sinistra, e questo lo conosciamo da sempre. E ne esce sconfitta la politica, ne esce sconfitta l'impegno politico anche a livello territoriale. Non abbiamo alcun problema a riconoscere la nostra sconfitta dentro questa grande sconfitta generale. Ma è mancato Silvio Berlusconi? Ma vede, questa è un'interpretazione facile. Le elezioni politiche sono le elezioni politiche, le elezioni amministrative sono le elezioni amministrative. Mancato Silvio Berlusconi, come dire, rispetto al 40% dei votanti? Non credo. Il 40% dei votanti è un problema della democrazia italiana. Però è stata anche una sconfitta dell'antipolitica, perché i grillini hanno perso altrettanto. Quando perde la politica e l'antipolitica. Poi non credo che i grillini siano l'antipolitica. Sono in Parlamento, dov'è l'antipolitica? Sì, allora perché è andato male secondo me? Io ho tanti problemi in questo momento che non mi diverto a pensare anche ai problemi degli altri. Noi stiamo calibrando la nostra azione per quanto riguarda il governo e ci stiamo dedicando al governo moltissimo le nostre energie, al lavoro parlamentare stiamo dedicando le nostre energie e dovremo dedicare più tempo e più energie anche al rilancio e al rinnovo del partito, se no finisce come tutte le altre volte che siamo andati al governo, in cui il governo, come dire, funziona e il partito viene messo in secondo piano. Questo è un errore, soprattutto con governi di coalizione. E quello che avete sentito è Renato Brunetta con il sottofondo di quello che si chiama il cicalino di Montecitorio in transatlantico, quando i deputati sono chiamati a votare in aula. Il Movimento 5 Stelle perde perché se ne parla quasi sempre negativamente, Fiorito sempre contro il Movimento 5 Stelle, ma non è vero, io e Carla Ruocco ci siamo addirittura molto simpatiche. Allora, un saluto da Montecitorio.